Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori, un tema di estrema attualità è quello dell'ecobonus con importanti e significative novità. Ne parliamo con il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. L'ecobonus era atteso, insomma, era già stato apprezzato negli anni scorsi. Il governo ha deciso importanti novità che vanno in diverse direzioni, giusto? Sì, è un'importante novità che permette sia alle famiglie di voler portare degli adeguamenti alle proprie abitazioni in termini di risparmio energetico o di ristrutturazioni, sia a un comparto molto delicato che in questo momento sta subendo una forte crisi, che è quello edile, e contestualmente cercare anche di trovare modo di risparmiare qualcosina adeguando proprio le vecchie abitazioni. Sono diverse le cose che ha deciso il governo, cioè una proroga temporale, un aumento della percentuale e anche l'estensione ad altri settori. Sì, allora innanzitutto ci sono due importanti novità. La prima, che innalza il bonus per quanto riguarda quelle voci che vanno a permettere agli edifici di risparmiare sulla bolletta dell'energia elettrica ottimizzando la propria abitazione dal 55 al 65%. E la seconda, che permette anche di poter beneficiare di questo risparmio le famiglie che vanno ad acquistare dei mobili che abbiano o che siano interessati da questi lavori di adeguamento o di ristrutturazione, e che viene mantenuta comunque la percentuale di ristrutturazione del 50% in questo secondo caso. C'è tempo fino a quando? Allora, innanzitutto noi sappiamo che la vecchia normativa scade il 30 giugno, mentre quella che verrà prorogata sarà dal 1 luglio del 2013. E resterà valida fino al 31 dicembre 2013 e verrà prorogata anche per il 2014 per i condomini. Cosa succede? Innanzitutto è importante dire che il Ministro ha sottolineato come questa sarà l'ultima proroga sostanzialmente, e per quanto riguarda i condomini questa percentuale del 65% viene innalzata a questo valore qua, e tiene conto anche la possibilità di acquistare immobili ma non gli elettrodomestici, quindi da non fare confusione con precedenti incentivi che ci sono stati, per quegli edifici diciamo vecchi o quei condomini che andranno a fare importante ristrutturazione, che permetteranno quindi di migliorare per il 25% di quella che è la volumetria complessiva dell'abitazione. Quindi bisognerà fare un intervento importante per arrivare al 65%. Questa cosa dei mobili è interessante, appunto, perché è un'innovazione, insomma. Di che mobili parliamo, appunto, per non fare confusione, come dicevi tu, con gli elettrodomestici che non rientrano in questa voce? Per quanto riguarda i mobili, dobbiamo considerare quelli che fanno parte dell'arredamento, ma non gli elettrodomestici. Se pensiamo per esempio alla cucina, dobbiamo considerare tutta la mobilia, ma non certamente il frigorifero o la lavastoviglie, che una volta invece beneficiavano di incentivi o di detrazioni sui 730. Per quanto riguarda i mobili, invece, se andiamo a fare un intervento nuovo, si potrà detrarre praticamente tutto e rientra nella categoria ristrutturazione. Quello che è molto importante, che anche il consumatore deve sapere, che rispetto ad altri interventi di cui una volta si doveva dare comunicazione a Pescara compilando un apposito modello, oggi invece è sufficiente semplicemente andare in banca e pagare con un stampato che è già predisposto, facendo riferimento a quello che è la legge che loro sanno già, e in occasione del 730 poter portare in detrazione in 10 anni quella percentuale di propria spettanza. Ecco, sono tutte notizie buone e positive. Mi sembra strano che non ci sia nemmeno un risvolto negativo. Cioè, la domanda è: ma tutti questi soldi per questi incentivi da dove si trovano? Allora, innanzitutto mi piace dire una cosa. Cioè, per quanto riguarda la detrazione, essendo che queste vengono spremate in 10 anni, c'è da augurarsi che il lavoro non venga mai a mancare, perché altrimenti si rischia di perdere il beneficio saltando qualche anno. La seconda cosa invece è molto importante, come ha detto te, capire dove andranno a recuperare le risorse, perché ad oggi sappiamo che anche in questo caso il ministro ha nominato 25 esperti che avranno il compito appunto di capire dove poter andare a reperire le risorse, perché oggi sappiamo che al vario ci sono diverse ipotesi, come l'aumento dell'IVA, che è ancora una discussione in ballo. Sappiamo che ci si parla anche di aumento del bollo dell'auto, quindi alla fine sono tutti interventi che si fa sempre con una coperta molto corta, che rischiamo poi di dover pagare tutti quanti e non risolve il problema del paese. Certo che comunque noi riteniamo che la politica degli incentivi sia una politica adeguata per poter dare fiato alle famiglie e poter dare sviluppo a un settore già in crisi. Speriamo che in questo senso si approfitti per non fare nuove abitazioni, ma per ristrutturare le vecchie. Quindi la possibilità c'è, bisogna ovviamente esserne informati, come noi abbiamo fatto, perché poi ci sono dettagli che magari un semplice telegiornale o una passata così sui titoli non dà. Per tutti ulteriori approfondimenti o consigli basta rivolgersi all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Noi con questo ci fermiamo, Carlo, la settimana prossima altri due argomenti insieme a voi. Grazie, buona giornata. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.